Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. E ancora una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a una nuova puntata di Nessun luogo è lontano. I saluti vi vengono anche da Riccardo Poli, Miriam Lucchetti in redazione e Pietro Lacorte in regia. Lo sapete, oggi la notizia campeggia su tutti i giornali, lo avete sentito anche ieri dai nostri GR. Ieri mattina il cargo italiano Enrico Jevoli è in rotta dagli Emirati Arabi al Mediterraneo, è stato assaltato e sequestrato da un gruppo di pirati somali al largo delle coste dell'Oman. 18 uomini di equipaggio, 6 italiani, 5 ucraini, 7 indiani sono ora nelle mani dei pirati somali. Sono ore ovviamente di attesa, di ansia per le famiglie. La Farnesina è chiusa nel silenzio stampa. Evidentemente in queste ore le attività sono frenetiche. Da quello che si sa, la nave si sta dirigendo verso le acque somale, quindi verso sud. Oggi a Nessun luogo lontano cerchiamo di capire meglio come si sta evolvendo, come sta evolvendo il fenomeno della pirateria e questo business, questa macchina da soldi dei moderni bucanieri, come gli stati si stanno difendendo e quali mosse e contromosse i vari attori stanno mettendo in campo. Per interagire con noi, per domande a me o ai miei ospiti, 349-238-6666 gli sms, la mail nessunluogo@radio24.it e poi la pagina Facebook Nessun luogo è lontano. Ma prima di tutto facciamo il punto sul fenomeno. Il fenomeno della pirateria è in costante aumento dagli anni 90 ad oggi. A seguito di questo incremento, l'International Maritime Bureau ha costituito nel 92 il Piracy Reporting Center con sede a Kuala Lumpur, un centro di investigazione sulla pirateria e di assistenza ai marittimi. Secondo i rapporti dell'IMB, le zone interessate dal fenomeno sono i choke point, i passaggi obbligati lungo le rotte marittime internazionali come il Delta del Niger, il Golfo del Bengala, il Mar dei Caraibi e soprattutto lo stretto di Bab el-Mandeb, tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso, area in cui è particolarmente attiva la pirateria somala. Si calcola che le aggressioni dei banditi somali ammontino a 231 dagli inizi degli anni 90 ad oggi, 26 dirottamenti, 450 le persone rapite e 15 quelle uccise. Sono una decina le navi tenute ancora in ostaggio per un totale di 172 membri degli equipaggi. Lo scopo principale della pirateria del Corno d'Africa è il sequestro ai fini di estorsione. Si stima che la somma pagata come riscatto dalle società armatrici sia stata di 55 milioni di dollari nel 2008, 80 milioni nel 2009 e oltre 100 milioni nel 2010. Il Golfo di Aden è attraversato da oltre 20.000 navi mercantili ogni anno e su queste rotte è trasportato circa il 12% del greggio mondiale. La crescita del fenomeno della pirateria ha provocato un aumento dei costi di spedizione e dei premi assicurativi e ha indotto le compagnie marittime a valutare percorsi alternativi al Corno d'Africa, come la rotta del Capo di Buona Speranza. Per il governo egiziano, evitare Suez comporta una perdita compresa tra i 5 e i 10 milioni di dollari al giorno, con un impatto sociopolitico molto elevato. A livello mondiale si calcola che le perdite annue ai danni degli armatori colpiti ammontino a una cifra compresa tra 13 e 16 miliardi di dollari e che il numero di assalti navali nel mondo abbia raggiunto quota 421, mentre 42 sono le imbarcazioni dirottate. Per quanto riguarda l'Italia, il sequestro dell'Enrico Jevoli è solo l'ultima di una lunga lista. Solo nel 2011 i pirati somali hanno sequestrato la Savina Kailin tra febbraio e dicembre, assaltato in aprile la motonave Rosalia D'Amato, in seguito liberata a novembre, e infine attaccato la Montecristo a ottobre. Questo è lo stato dell'arte di uno dei business più lucrosi e più in crescita degli ultimi anni. Saluto immediatamente i miei ospiti, Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi ascoltatori. E buongiorno anche all'ammiraglio Fabio Caffi, esperto di diritto internazionale marittimo. Ammiraglio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche a lei, salve. Allora, cerchiamo di andare con ordine e partiamo da chi? Dai pirati. Gianandrea, chi sono? Quanti sono? Come sono armati? Ah, quanti sono sul mare? Sono sicuramente alcune centinaia, diciamo, i manovali, quelli che vanno sul mare a dare la caccia, ad abbordare i mercantili in transito. Non sono degli sprovveduti, perché sappiamo che molte imbarcazioni di medio piccolo tonnellaggio sequestrate sono state poi utilizzate, vengono utilizzate come navi madre. Questo cosa significa? Che se inizialmente potevano partire dalla costa con i loro barchini per attaccare solo le navi che si muovevano vicino alla costa somala, beh, con queste navi madre Canary si può colpire anche a molte miglia, in alcuni casi oltre 1000 miglia dalla costa somala. Come sono armati? Beh, armamento leggero, anche molto rudimentale, lanciarazzi RPG, classica arma dei guerriglieri in Somalia e altrove, Kalashnikov, qualche mitragliatrice pesante, nulla di sofisticato, ma del resto devono solo impaurire o sparare contro delle ciurme, degli equipaggi di navi mercantili, quindi generalmente disarmati, quindi è difficile avere il sopravvento su questi equipaggi anche avendo armamenti molto, molto rudimentali. Ecco Gianandrea, sull'efficacia dei loro assalti non ti interrogo perché è evidente che è altissima e fra l'altro l'abbiamo sentito anche dalla nostra scheda. Ammiraglio Caffio, come rispondono allora le compagnie armatrici estere e poi veniamo al caso italiano? La prima difesa richiesta è da parte delle navi, degli armatori, tant'è che l'Organizzazione Marittima Internazionale ha sviluppato delle best practices, delle regole per l'autoprotezione da parte dei mercantili. Mercantili che non possono e non vogliono essere armati con armamento, non possono perché legalmente un mercantile non può essere, se non in tempo di conflitto, che tra l'altro prevede un armamento limitato, ma può adottare solo delle misure per evitare gli abbordaggi, misure che sono l'uso di oggetti d'acqua potenti, di filo spinato intorno al bordo della nave, di cannoni acustici, ma cose del genere, soprattutto l'adozione della cittadella, che è un luogo fortificato della nave, la plancia di solito è accessibile dall'esterno, dove l'equipaggio si blinda in modo da evitare che l'assalto abbia esito. Ecco, ammiraglio, la interrompo perché la linea è leggermente disturbata, per cui proviamo a richiamarla. Gianandrea, prima di venire a quelle che sono invece altre due ipotesi di difesa un po' più attiva e meno passiva, quindi non filo spinato, non cannone d'acqua, ma armi caricate a bordo dei mercantili. Facciamo il punto, facciamo un passo indietro e parliamo della legislazione, perché è importante anche inquadrare dal punto di vista normativo che cos'è la pirateria e di che tipo di reato stiamo parlando. Abbiamo sentito Francesco Scavo, che è sostituto procuratore della Procura di Roma e si occupa del processo contro i pirati somali che, lo ricorderete, hanno assaltato la Monte Cristo il 10 ottobre del 2011. Il reato di pirateria esiste, è previsto dall'articolo 1135 del codice della navigazione, che prevede la punizione del comandante di una nave nazionale o straniera che commette atti di depredazione in danno di un'altra nave nazionale o straniera e o del suo carico, o comunque a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su nave nazionale o straniera. È una normativa che varia nel tempo, in genere adesso sono un paio d'anni che sostanzialmente la possibilità di, diciamo così, di operare è rimasta la stessa, nel senso che è previsto che per il reato di cui al 1135 del codice della navigazione e per i reati ad essi connessi si può, in relazione alla missione Atalanta, procedere da parte dell'autorità giudiziaria italiana e per i reati ad essi connesso, che a volte può essere il sequestro di persona con finalità di terrorismo, che spesso noi contestiamo, laddove ovviamente vi siano i presupposti, perché noi riteniamo che alcuni dei pirati che abbordano le navi facciano parte di frange terroristiche denominate Al-Shabaab. Questa normativa, da ultimo, nel mese di agosto del 2011 ha previsto anche la possibilità di scorte armate a bordo delle navi. E qua veniamo diciamo al punto cruciale su cui vorrei incentrare la puntata di oggi, non prima di aver precisato che quando il sostituto procuratore Francesco Scavo si riferisce ai terroristi Al-Shabaab, stiamo parlando di quella formazione estremista islamica che da ormai più di 2 anni fa il bello e il cattivo tempo in quasi tutta la Somalia, eccezione fatta per una discreta fetta della capitale Mogadiscio, dove c'è un governo, un fragile governo transitorio sostenuto dalla comunità internazionale. Torniamo però al punto cruciale, che è quello dell'armare o meno i mercantili, cioè del far salire o meno persone armate a bordo dei mercantili. Ci sono due opzioni. Gianandrea Gaiani, quali sono? Le opzioni sono quelle scelte dai diversi paesi e si possono scegliere anche entrambe. La prima è quella di consentire, fare un accordo tra gli armatori e le forze armate di ogni singolo paese, perché sui mercantili possono salire nuclei, squadre di fanti di marina solitamente, di fucilieri armati, che possono difendere la nave dagli attacchi dei pirati. Sono uomini armati con armi leggere, fucili più che sufficienti, anche spesso fucili di precisione, per colpire i barchini e i loro occupanti quando si trovano ancora a oltre un chilometro dalla nave, quindi impedire che accada l'abbordaggio vero e proprio. L'altra opzione è quella di impiegare guardie private, contractor, società, ce ne sono tantissime, soprattutto in Gran Bretagna, società private di sicurezza che offrono personale specializzato nella scorta a mercantili, sono generalmente uomini che hanno fatto una lunga carriera nelle forze armate britanniche, in particolare in marina o nei marines britannici. E molti paesi, quasi tutti i paesi, hanno adottato questa linea. L'Italia ha deciso quest'estate, finalmente, con un ritardo spaventoso sugli altri paesi, ma soprattutto sull'emergenza che è tangibile, sulle richieste degli armatori di Confitarma, di adottare entrambe le soluzioni. La Marina ha messo a disposizione qualche decina di fanti di Marina che possono essere imbarcati a un costo di circa 2.000 euro al giorno, si parla di gruppi, squadre di sei fanti di Marina che possono essere imbarcati a richiesta da parte degli armatori e coi costi sostenuti dagli armatori. Ecco. C'è anche un'altra parte della legge che prevede l'imbarco dei contractors privati, ma questo regolamento attuativo della legge è ancora in alto mare e non se ne sa nulla. Ammiraglio Caffio, queste poche decine di... quando Gianandrea Gaiani parla di fanti di marina, immagino si riferisca al battaglione San Marco. Sì, le forze da sbarco. Ecco, sono sufficienti per l'enorme, immagino, richiesta che gli armatori italiani rivolgono alle forze armate? Ma guardi, intanto mi permetto di non di contraddire, ma di precisare meglio quello che ha detto l'amico Gianandrea Gagliani. E l'Italia è stata la prima a prevedere l'imbarco di nuclei militari di protezione in modo sistematico, in modo organico, con una legge molto dettagliata. Alcuni paesi europei l'avevano fatto in modo estemporaneo, quindi sottolineo che l'iniziativa italiana è stata veramente innovativa e si deve alla lungimiranza del nostro capo di Stato Maggiore, l'ammiraglio Branciforte, che l'ha concepita. Detto questo, c'è da dire che questa iniziativa però non è ancora completamente attuata, cioè risulta che alcuni armatori abbiano già chiesto la scorta militare alla Marina sulla base della convenzione stipulata con Confitarma o con altre entità armatoriali. Ammiraglio, devo interromperla perché incombe le informazioni finanziarie, una piccola pausa, poi di nuovo Nessun Luogo Lontano, a tra poco. Nessun luogo è lontano. Come ci si difende dalla moderna pirateria? Di questo parliamo oggi a Nessun Luogo è Lontano. Ammiraglio Caffio stava terminando il ragionamento riguardante la risposta del governo italiano e delle forze armate italiane all'esigenza espressa dagli armatori di maggiore protezione. La legge ha previsto la possibilità di imbarcare i nuclei militari di protezione. Risulta che un certo numero di armatori, forse qualche decina, si siano già avvalsi di questa possibilità e che delle scorte siano state già effettuate nelle tratte a maggior rischio, che sono principalmente quella da Gibuti fino al sud dell'Africa, fino alle Seychelles, e verso est fino al Ceylon o all'India. Sì. Il problema è che non ha avuto ancora una diffusione maggiore per via della difficoltà di stipulare accordi con i paesi di transito. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che delle navi mercantili che imbarchino dei nuclei militari, che imbarchino dei militari, non possono entrare liberamente nelle acque territoriali di un paese terzo, quali sono appunto i paesi di scalo delle nostre navi italiane mercantili da proteggere. Sì, a meno di stipulare accordi volta per volta con ciascun territorio. Esatto. Allora, di fronte alla difficoltà che gli stati interessati accordino queste intese, sì, si è proceduto avendo l'autorizzazione caso per caso. E questo spiega in qualche modo, insomma, ancora il fatto che non è ancora rodata, sì, l'iniziativa. Però credo che il nostro Ministero degli Esteri stia lavorando bene, stia lavorando allacremente per far stipulare questo tipo di accordi, che devo sottolineare sono completamente innovativi. Nessun, sì, paese ha fatto cose del genere, e quindi è necessario convincere gli stati della regione che è una misura necessaria quella di dare l'autorizzazione a un mercantile con militari armati a entrare, con tutte le garanzie possibili, sì, cioè l'elenco dei militari armati, le armi sotto scorta, certo, ecco. Certo. Per evitare insomma qualsiasi zona d'ombra. Intanto al 349-238-6666 un ascoltatore ci chiede perché, come alternativa alle armi, non si installano su tutte le navi le panic room. Le panic room sono queste celle blindate in cui l'equipaggio si può rifugiare, in cui si riesce a governare la nave e dove si può resistere alcune ore, forse alcuni giorni se non vado errato, e nel frattempo sfuggire o tentare di sfuggire ai pirati mentre si chiama aiuto. Gian Andrea, secondo te? Il caso della Monte Cristo, che tu prima richiamavi, è emblematico. Sì. L'equipaggio ha visto l'abbordaggio dei pirati, si è chiuso in questa stanza blindata, ha segnalato alle navi alleate che erano comunque tutti al sicuro, quindi non c'erano ostaggi nelle mani dei pirati, e questo ha consentito ai Royal Marines britannici di intervenire sul mercantile italiano, catturando senza sparare forse neanche un colpo i pirati somali, oggi sotto processo in, sì, Italia, e liberando la nave. Però il problema rimane: se noi continuiamo a costruire navi tutte dotate di questi sistemi, certo risolveremo il rischio, eviteremo tanti rischi di sequestro, ma sarebbe come dire che ognuno di noi dovrebbe costruirsi in casa una stanza blindata, perché potrebbero entrare ladri e pirati, quindi o ladri, sì, o scassinatori o aggressori o criminali. Il problema è anche quello di, e dovrebbe prima o poi venire affrontato, dovrà venire affrontato, nella storia si è sempre affrontato, anche sul piano della, non solo di difendere le navi in transito, ma anche di stroncare la minaccia a queste navi, perché non possiamo accettare che l'intero mondo occidentale, e non solo quello occidentale, spenda miliardi di dollari all'anno, qualcuno dice, studiosi americani, 12 miliardi di dollari all'anno di costi, sì, accessori al problema pirateria, quindi costi che riguardano le assicurazioni, l'allungamento di tratte, l'assunzione di guardie del corpo private per le navi. Insomma, sì. Allora, i pirati incassano 150 milioni all'anno di riscatti. Sì. Costa 12 miliardi, è un po' incredibile. Sì, allora, già che hai citato la soluzione radicale, chiamiamola così, vi faccio ascoltare un commento di Niccolò Carnimeo, che è docente di diritto della navigazione e dei trasporti alla facoltà di economia all'università di Bari, che spiega qual è, secondo lui, la ricetta per debellare la pirateria. Ottima l'iniziativa di avere soldati del battaglione San Marco sulle nostre navi, e poi bisognerebbe che la comunità internazionale, visto che c'è una risoluzione del Consiglio di sicurezza che lo prevede, intervenisse chirurgicamente a terra contro i pirati che sono più pericolosi. Nel senso che si fa per il terrorismo, si dovrebbe cominciare a farlo anche per la pirateria. Allora, intervenire chirurgicamente a terra significa individuare le tortuga nel coste somale e attuare una qualche azione militare. Gian Andrea, so che tu sei di questo avviso. Sì, ma non solo di questo avviso, siccome sono anni che abbiamo forze multinazionali, internazionali presenti nelle acque somale, sì, che cercano di controllare i pirati, abbiamo addirittura, sappiamo che tutte le nostre forze alleate, anche quelle italiane, hanno una mappatura completa, un controllo totale, sappiamo tutto, dove sono le tortughe, dove vivono i capi di queste bande di pirati, qual è il loro sistema logistico, dove tengono il carburante, dove, la ricognizione satellitare e anche elicotteristica, sì, ha dato informazioni complete. Un'azione militare contro queste tortughe sarebbe essenzialmente un'azione dal mare, cannoneggiando dal mare come si faceva una volta, e poi sbarcando con supporto aereo ed elicotteri forze da sbarco che potrebbero completare l'opera e eliminare queste tortughe, e sì, in questo modo affondando le loro barche, eliminando le loro bande. Tra l'altro è incredibile questa cosa, le flotte internazionali non sparano un colpo contro i pirati, quando li catturano, siccome nessuno li vuole processare, spesso li liberano, ma proprio un mese fa la marina francese ha aperto il fuoco in Somalia contro delle postazioni degli Shabab, ne, sì, parlavate voi prima, nelle parti di Chisimaio. Quindi spariamo ai miliziani di Al-Qaeda, ma non spariamo ai pirati che minacciano il nostro stesso paese, perché minacciano le nostre risorse economiche, i nostri traffici mercantili e gli equipaggi anche italiani, anche europei, sì, anche occidentali, che su queste navi lavorano. Fra l'altro, insomma, il caso della Somalia, chi ci segue lo sa, ne parliamo quanto più possibile, al momento è più caotico che mai, c'è l'estremismo islamico di Al-Shabaab, ci sono questi miliziani, questa formazione interclanica piuttosto agguerrita, ma c'è in corso, e lo dicono in pochissimi, un'offensiva da parte del Kenya, soprattutto nel sud della Somalia, ma non solo, tu citavi il caso del bombardamento dei francesi, ma anche le forze americane. Djibouti è un punto di partenza per tantissime forze internazionali. È vero una cosa, che la costa somala è ipercontrollata, ci sono stati anche azioni mirate da parte dell'intelligence americana negli anni passati su capi di Al-Qaeda. Effettivamente ci si chiede perché allora non si interviene sui pirati. Ammiraglio Caffio, da lei un commento su questo aspetto. Le dico subito, intanto la guerra ai pirati non è una guerra in senso tecnico, nel senso che non c'è un conflitto armato in atto. La differenza dal punto di vista del diritto internazionale non è da poco, perché durante un conflitto si può usare anche la deadly force, purché in modo adeguato e rispettando certi criteri. Diverso il caso del law enforcement, e questo è un caso di law enforcement. Cosa vuol dire? Vuol dire che, non essendoci un nemico da combattere e non essendo possibile quindi annichilirlo con ogni mezzo possibile, sia pure secondo regole precise, è necessario adottare misure di reazione proporzionata secondo necessità e immediatezza. Certo. Intervenendo preventivamente con ogni cautela. Ecco, quindi questo spiega il fatto che ancora un'azione militare non è stata adottata. Anche perché mi permetto di aggiungere, ammiraglio, che dove ci sono le basi dei pirati, non so, pensiamo a Chisimaio, faccio un nome di una località tra le tante, ci sono però anche tantissimi civili. È vero che certo, probabilmente mi dispiace di un po' di sentire da Gianandrea Gagliani, però lo vedo male un bombardamento dal mare. Il bombardamento navale è una misura estrema che si può adottare in caso di conflitto armato. Non so, le ricorderà, gli inglesi bombardarono Genova nel 40, gli israeliani di recente l'hanno utilizzato in modo però estremo, e quindi questo non credo sia possibile. È necessario invece adottare misure mirate, appunto adottando, non so, armamenti sofisticati e sì, particolari, bombe intelligenti. Ecco, io credo che le coalizioni, intendo come tali Atalanta e la NATO, stiano studiando queste opzioni. È possibile anche che le Nazioni Unite abbiano allo studio una risoluzione un po' più esplicita, perché attualmente la 1851 contiene solo due parole, una dice dal mare, cielo e terra, sì, è possibile per intervenire per neutralizzare i pirati. Quindi prima di chiudere, ammiraglio, il tempo ai noi è tiranno, volevo toccare l'ultimo punto che però mi sembra cruciale, vi chiedo di essere veramente telegrafici. La seconda opzione di cui abbiamo fatto cenno a inizio trasmissione era imbarcare i contractors, mercenari, cioè personale privato armato. Quali controindicazioni, anche quali problemi giuridici può portare l'impiego dei contractors? Gianandrea Gagliani, telegrafico, ti prego. Nessuno, perché di fatto la Spagna li usa, i britannici li usano, gli americani li usano, hanno fatto degli accordi probabilmente con altri paesi, sulle loro navi ci sono, infatti i pirati non attaccano queste navi perché sanno che prendono fucilate e devono scappare con la coda tra le gambe. Quindi io credo che ci sia una mancanza di determinazione nell'affrontare il problema. Le cannonate, sì, non si rade al suolo, ha ragione l'ammiraglio Caffi, non si rade al suolo un villaggio, ma oggi le nostre marine, anche quella italiana, hanno munizioni di precisione che possono colpire chirurgicamente la casa del capo banda, che così forse si può colpire con precisione chi comanda la banda di pirati e non soltanto radere al suolo ovviamente una città. Sì. L'ammiraglio Caffio invece sull'ipotesi, l'utilizzo dei contractors, come la pensa? Oramai credo che sia necessario, la legge italiana lo prevede, l'ultimo sequestro dello Jevoli ha messo in risalto che la ferita è ancora aperta, che è necessario adottare ogni mezzo per proteggere le navi mercantili italiane, e sicuramente le guardie armate private lo sono. La legge ha indicato alcuni criteri per imbarcare guardie armate private, questi criteri devono essere meglio esplicitati con un regolamento applicativo di iniziativa del Ministero degli Interni. Probabilmente sarà fatto a breve, penso. Ci sono alcune criticità giuridico-legali, non so di che tipo, ma potrebbero essere superate. Devo mettere in risalto la differenza però rispetto ai nuclei militari di protezione. La legge è stata molto precisa e dettagliata nel disciplinare l'imbarco ai nuclei militari di protezione, che devono obbedire a delle regole di ingaggio, a degli ordini, hanno una catena di comando, sono in certa misura indipendenti rispetto al comando del mercantile. Per le guardie armate private i problemi sono invece tanti, riguardano appunto chi gli dà ordini, in che modo possono usare la forza, quali sono i loro rapporti con il comandante del mercantile. Chiarissimo, ammiraglio Caffio, vi devo ringraziare, il tempo stringe. Grazie a Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa, per essere stato con noi. Grazie all'ammiraglio Caffio, esperto di diritto internazionale marittimo. I saluti e i ringraziamenti vi vengono anche da Riccardo Pori, Miriam Lucchetti, Pietro Lacorte, che ha dato musica e ritmo a questa puntata. Noi ci risentiamo domani 13:15, ma ricordate, nessun luogo è lontano.